Attento Daniele. Attento Antonio. C'è uno sul canale 10, la massa viene varia. A Padre Roger, buongiorno, mi senti? Buongiorno, chi sono? Ma non arrivi, mettiti un foglio di giornale sotto. Forse ci vuole qualcosa di più di un foglio di giornale, dai, sono piccolino, piccolino. Non ho capito chi sei, cambio. Fammi da questa parte, San Michele. Da dove stai parlando? San Michele, io sono dentro un buco e quindi sono piccolino e vabbè, ci vorrebbero vitamine. No, ho capito da dove stai parlando. Qua Porto Torres City. Qua capo, ho capito Porto Torres. E io sono San Michele qua vicino Sorso. No, ce ne copre qua. Ma dai, per arrivare da te io dovrei mettere vitamine se mi senti, dai. Attenzione Sassari da Porto Torres, c'è qualcuno, cambio. Dieci, in unità che... 5, 10, 15 e 20. Non ci sia nessuno sul canale 10, cambio. Attenzione al canale 10. CQ canale 10. Prova radio. Ma sei qua sul 10 o sul